Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti nello spazio dedicato alla salute. Apriamo con una buona notizia. Un farmaco utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide ha dimostrato di essere efficace nel trattamento della polmonite interstiziale causata dal Covid-19. Ne abbiamo parlato oggi nello speciale Obiettivo Salute con voi, che andrà in onda ogni giorno dalle 10:30 alle 11 insieme al professor Paolo Ascierto, direttore dell'unità oncologia melanoma immunoterapia oncologica e terapia innovativa del Pascale di Napoli. Sentiamo. Innanzitutto vi posso dire che dopo i primi due adesso ne abbiamo trattati altri 4 e probabilmente oggi altri 2, e in tutta Italia sta aumentando il numero di pazienti trattati con il tocilizum. Questa è la molecola che, come diceva lei, è utilizzata per l'artrite reumatoide e sostanzialmente è un anti-interleuchina 6. Questa interleuchina 6, che noi conosciamo essere un mediatore importante in immunologia, sì, che prodotto in eccesso può anche dare degli effetti collaterali. E questo è quello che avviene praticamente nel polmone, perché nel polmone ci sono tante cellule del, sì, sistema immunitario. Queste producono in risposta all'infezione del virus tutta una serie di sostanze, tra cui l'interleuchina 6, che in eccesso determina poi tecnicamente quella che si dice un'alveolite, ed è quella che poi mette in difficoltà respiratorie. Quindi il farmaco agisce nel neutralizzare l'eccesso di interleuchina 6, quindi non agisce contro il virus, ma contro la complicanza. Allora, noi quello che abbiamo visto è che nei primi due pazienti trattati c'è stato un miglioramento di entrambi, un modico miglioramento in uno di questi pazienti, un altro invece un miglioramento più importante. A 48 ore questo miglioramento era addirittura tale per cui i parametri erano da permettere di stupare un paziente. Devo dire che ovviamente bisogna essere sempre cauti, pertanto stamattina faremo una TAC a questo paziente, e se l'infiammazione, se la polmonite sarà realmente migliorata, allora verrà stubato. Ma le devo dire anche un'altra cosa, perché dopo che noi abbiamo avuto l'idea, quello che ci ha dato, diciamo, l'input a iniziare immediatamente, sì, immagini che noi abbiamo fatto un brainstorming venerdì sera con i colleghi anche cinesi, perché noi abbiamo una collaborazione con i colleghi cinesi, e gli abbiamo detto di: guardate, noi avremmo questa idea, che cosa ne pensate? E loro ci hanno detto: ottima idea, noi già l'abbiamo fatto su 21 pazienti. Certo. Hanno detto: ah, quindi. E loro hanno detto che di questi 21 pazienti, quasi tutti, 20 su 21, in 24-48 ore hanno recuperato i parametri di funzionalità respiratoria e sono stati dimessi in 2 settimane. Quindi ci è sembrato un dato così forte, per cui il giorno dopo abbiamo creato questa task force tra il mio istituto, l'Istituto Tumori, e l'azienda De Colli, dove sono il Cotugno, che è l'ospedale dove sono materialmente questi pazienti, e immediatamente abbiamo deciso di trattare 2 pazienti. E per oggi è tutto, la programmazione di Radio 24 prosegue con Melog, io vi aspetto come sempre domani alle 6:10 e poi per la nostra speciale Obiettivo Salute con voi, insieme accendiamo la testa, spegniamo la paura, con le vostre domande, i vostri esperti, dalle 10:30 alle 11 in diretta con Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana. Buona giornata.